Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La gestione dei campi rom e soprattutto dei centri d'accoglienza per migranti a Roma è uno dei business più redditizi. La cupola lo capisce e ci si infila senza esitazione. Un piatto ricco nel quale la Erikes 29 giugno si avventa con avidità. Mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale. Ma chi specula su chi? I guadagni sono importanti. Ci sono il campo Rom, i 15 centri d'accoglienza per richiedenti asilo tra Roma, città e provincia, il centro per madri con bambino, un ostello e altre strutture ancora. Insomma, un business da 40 milioni di euro l'anno. Ma tu ci vedi quanto ci guadagnano sugli immigrati? Il traffico di droga rende di meno. Il campo di Castel Romano. Quante volte sono venuti a mettere a posto i container? Nessuno. Ma a mettere a posto l'acqua e la luce? Mai. Il depuratore l'hanno messo a posto? Mai. Siamo senza luce, senza scaldamenti. Qui nessuno è venuto a controllare nostra salute, a controllare i nostri figli. La Erikes, la cooperativa di Buzzi, loro sono i suoi dipendenti. Io quest'anno ho fatto 300 segnalazioni circa al comune, all'ufficio Nomadi. Ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Riccardo Bonacina, direttore della rivista Vita, che si occupa attivamente del terzo settore, buongiorno. Buongiorno, allora, ciao. Ciao. Mafia Capitale è solo la punta dell'iceberg o che cosa? Mafia Capitale è un disastro e credo un dolore per tutti quelli. Naturalmente. Ecco, perché è anche interessante il nome che hanno dato gli investigatori all'inchiesta, che hanno chiamata Mondo di Mezzo, no? Sì. Che è molto simile a un nome, certo, che spesso abbiamo usato per definire il terzo settore come società di mezzo, quindi è importantissimo fare chiarezza al più presto, diciamo, che la giustizia proceda velocemente. Ecco, sì, naturalmente, però volevo andare un po' dentro al problema. Il problema è anche che in quel mondo di mezzo il terzo settore viene percepito con tanto volontariato ma spesso con poca professionalità e quindi è facile, come dire, sfruttarlo. Secondo me il tema vero che mi sembra che questa inchiesta faccia emergere e che davvero interessa il terzo settore in generale, al di là, diciamo, del caso specifico, è che il terzo settore in questi anni è cresciuto con i numeri che l'Istat ha dato, che sì, sono impressionanti. È impressionante. Più 39% ecco, di addetti, però, più 28%. Però, è cresciuto perché hanno esternalizzato brutalmente i servizi, appunto, che il pubblico dava direttamente. Ecco. E spesso, come nel caso di Mafia Capitale, in emergenza, cioè sull'emergenza in Italia si fa sull'emergenza si fa di tutto in Italia. Ecco, ma solo un'organizzazione su tre misura l'impatto sociale dei suoi progetti, quindi in qualche modo è uno spannometrica la misurazione, cioè insomma, ognuno dice un po' come gli pare, cioè è difficile misurare l'utilità sociale del lavoro di un non profit, c'è questo problema, no? Proprio c'è, grazie. Il problema in particolare in Italia, tieni presente che no, stiamo parlando di ma parliamo dell'Italia adesso perché ci interessa, sì, questo, no? C'è, sì, questo, no, problema. Dico, mentre nel resto del mondo si misura l'impatto sociale delle azioni che fanno, diciamo, le organizzazioni del terzo settore, in Italia sembra impossibile farlo, addirittura c'è chi teorizza che non si debba fare, ecco. Invece no, si deve fare e tra l'altro nella legge di riforma del terzo settore che procede ne parleremo. Il caso Buzzi però nasce perché appunto non c'è verifica nell'uso delle risorse. Siamo d'accordo? È vero. Ecco, assolutamente. Allora, non c'è misurazione di ciò che poi si fa. Allora, ascoltiamo cosa diceva mesi fa Peppe Pagano, uno dei soci fondatori di Nuova Cucina Organizzata, una cooperativa sociale che fa ristorazione con i ragazzi disabili. Il paradosso più grosso, perché noi teniamo ritardi della pubblica amministrazione intorno ai 2 anni. Ai 2 anni? Sì. E come sopravvivete? No, ma non si sopravvive, in realtà è il paradosso più grosso è proprio questo, perché all'impresa sociale se chiedi questo tipo di tempi significa che alla fine chi rimane i lupi. Il lupo chi è? Chi non rispetta le regole. Certo. Vabbè, però voi resistete, quindi come fate? Noi resistiamo, non ci paghiamo lo stipendio. Ecco. Quindi è il sistema stesso, come oggi, come è fatto oggi, che fa sopravvivere i lupi e morire le cooperative oneste. Certo, cooperative oneste in cui appunto i lavoratori non pigliano stipendi o pigliano stipendi da 900 euro, capito? Certo. Quindi, ma quindi terzo... me la ricordo benissimo quell'intervista. Te la ricordi? Perché, perché c'eri anche tu in trasmissione, esattamente. Esattamente. L'abbiamo ripresa per quello. Il terzo settore genera un PIL di quasi 100 miliardi di euro. Tanti soldi che vanno cola tanti, quindi quali sono gli strumenti di controllo? Perché ci risiamo. Qui appunto accennavo prima alla legge di riforma del terzo settore che pone questo tema in maniera molto chiara, che è quella della misurazione degli impatti e di regole più stringenti. Questo è un tema assolutamente vero, perché anche il sistema cooperativo bisogna farsi qualche domanda sulla vigilanza, no? Naturalmente. Perché una cooperativa che passa in tre anni da 1 milione di euro a 61 milioni qualche è un po' tanto, tema, qualche problema lo pone. E intanto Renzi al Festival del Volontariato a Lucca 9 mesi fa, senti cosa diceva. Ceri. Noi siamo pronti nell'arco di un mese con i ministri competenti a andare in Consiglio dei Ministri e approvare uno schema di disegno di legge delega. Oggi è il 12 d'aprile. Ci diamo un mese di tempo. Noi da qui al 12 maggio, non vi sto dicendo da qui al 12, metto anche l'anno perché sennò non ci credete, 12 maggio 2014, noi siamo pronti a offrire alla vostra attenzione un disegno di legge delega che voi discutiate. Vita ci faccia un bel lavoro di forum, le varie associazioni litighino su questo e nell'arco di un tempo che ci diamo alla fine di maggio siamo in grado di presentare un disegno di legge alla Camera dei Deputati o al Senato. Cosa è capitato? Cosa è capitato? Allora, diciamo, con la promessa, diciamo, il disegno di legge è arrivato a giugno, no? Quindi diciamo un pochino dopo. Vabbè. Poi è stato discusso, è stato presentato ufficialmente a Poletti il 6 agosto e dal 6 agosto fino all'11 settembre non è successo niente perché l'Italia è ferma. L'11 settembre è stato incardinato alla Commissione Affari Sociali della Camera. La discussione è cominciata inizio ottobre, si è trascinata, diciamo, tra preliminari infiniti fino a novembre. A novembre sono state fatte tante audizioni, troppe audizioni alla Camera. Ora stanno cominciando a discutere i primi emendamenti in commissione. La previsione è che arrivi a fine febbraio, diciamo, licenziato dalla commissione, arrivi in aula. Ecco, ma quello che abbiamo detto è previsto nella riforma del terzo settore? È previsto, è assolutamente previsto. Uno dei titoli è distinguere il grano dall'olio, uno dei titoli della riforma. Spero che il Parlamento quindi non disinneschi le regole. Anzi, ecco. in questo senso forse questo casino che si è abbattuto su Roma aiuterà la messa a regime di un sistema efficace e garantito, no? Certo. Assolutamente. Tieni presente, vi do un dato, in Italia nelle organizzazioni non profit, per l'organizzazione non profit sono previste più di 300 registri, quindi una cosa assolutamente non trasparente, non accessibile, e lì si prevede un registro unico delle attività non profit che ogni cittadino possa consultare. C'è una domanda di Secchi. Buongiorno Bonacina. Buongiorno. Io insomma è da tempo che batto il chiodo sui 7 miliardi di fatturato della holding Roma Capitale, ma non è il caso di cominciare un'operazione per devolvere cose che non sa fare più il comune e che generano, come abbiamo visto, delle aree grigie appunto a COP che invece sanno fare il loro lavoro, cioè applicare il principio della big society e mollare quello invece del big state, cioè lo Stato che sta ovunque? Sì, diciamo, come dicevo prima, l'importante è che diciamo, questo trasferimento sia un trasferimento chiaro, regolato, trasparente, capace di misurare poi gli naturalmente impatti. Quello è il punto, ecco, perché se no è teoria. Buttafuoco anche. Buongiorno, forse possiamo avere una illuminazione. Oggi su Repubblica Carlo Bonini in un reportage, in un pezzo, svela quello che potrebbe essere uno strano inquietante retroscena, cioè Buzzi dietro i disordini di Tor Sapienza, quasi a manovrare quelle che sarebbero state le reazioni del quartiere in accordo, diciamo, con Carminati. Ora, è fantascienza o è credibile tutto ciò? È credibile nel quadro che dicevo prima, cioè in Italia si lucra nella cioè si creano le emergenze per poi fare stanziare dei soldi e poi accaparrarsi i soldi. Quindi in questo quadro, cioè l'emergenza ti fa guadagnare, come Buzzi nell'intercettazione esplicitamente dice, è anche possibile. Ho visto anch'io il pezzo di Bonini stamattina, è inquietante, ma nel quadro della suscitare l'emergenza per fare stanziare soldi, può essere. Può essere, va bene. Ci risentiremo perché seguiremo questa, naturalmente, l'evoluzione della legge in Parlamento, certo. E ti consideriamo il nostro interlocutore. Grazie. Gianluca, ciao, Nicoletti, grazie. Ciao. Gianluca Nicoletti conduce Melog, tutti lo sentono su questa radio, il treno va tutte le domeniche. Ecco, tu malgrado sei diventato un esperto del mondo del terzo settore, ma anche dei rapporti con le amministrazioni per tuo figlio Tommaso, che è autistico e che ha bisogno di assistenza continua. Ecco, quanti anni ha Tommaso intanto? Tommaso ha 16 anni. E di che tipo di assistenza ha bisogno? Prima si inizia innanzitutto a farsi riconoscere la disabilità, c'è certo. Questo iter per il riconoscimento dell'invalidità, la legge 104, si fanno documenti, commissioni, te lo guardano, te lo riguardo, finalmente hai un figlio riconosciuto disabile, finalmente, per molti già questo è uno shock. E poi tu hai di cominciare a esigere i tuoi diritti, poco che diritti. Sia. I diritti, parliamo un momento dei diritti. Il Comune di Roma, per esempio, che tipo di assistenza ti ha dato? Ma il Comune di Roma mi ha permesso di avere la cosiddetta assistenza domiciliare, che è un servizio che forniscono i municipi. Fai una domanda, ti metti in una lista e dici: ho un figlio che è una 104, ho diritto all'assistenza domiciliare, che è un servizio che i municipi te lo mandano. Sì, non è così automatico, perché dipende, alcuni municipi sono affollatissimi, perché l'assistenza domiciliare la chiedono dall'anziano disabile alla persona con altre disabilità. Ecco, ma tu scrivi nel tuo libro che la legge sull'assistenza è ambigua. Ambigua in che senso? Va letta bene, va interpretata, e molte volte l'interpretazione è in mano ad alcuni funzionari. Il mio libro, appunto, ha fatto un capitolo, Uomini e topi, in cui vedevo il paradosso in un paese in cui la gente non si rende conto che un essere umano, nel momento in cui gli fornisci un servizio, devi mandargli delle persone che abbiano competenza per fare questo servizio. In realtà non è così, funziona più o meno in tutti i municipi di Roma, ma anche in altre città, che il municipio, una volta ti riconosce questo servizio, ti dice: benissimo, hai diritto a tante ore di assistenza domiciliare, ti mandiamo a casa noi una persona. Nel mio caso mi sembra che venivano due volte a settimana, ogni volta tre ore. Quello era il servizio. Ma una persona qualificata o qualunque? No, assolutamente non qualificata, perché i servizi sono affidati a delle grandi cooperative. Adesso possiamo vedere cosa le grandi cooperative devono fare business. Lo scopo del terzo settore è, non dico di far lavorare soltanto volontari che fuori dal tempo e fuori dalla regola, è persone che lavorano con cognizione di causa, con metodo, con studio, con applicazione, e hanno giustamente anche un loro guadagno. La gente deve lavorare, e nessuno lavora gratis. È una persona qualificata che ha studiato per trattare. Costa la formazione. La persona che si occupa di mio figlio si è pagato da solo la formazione, perché nello specifico per formare educatori di autistici, che è una sindrome ancora poco conosciuta e accettata, devi pagartelo da solo. Diciamo che è stato un lavoro fatto su tuo figlio in qualche modo. Sì, su mio figlio. Diciamo, il punto di caduta. Ma non dovrebbe essere così. Sì, il punto di caduta è che loro ti danno questa assistenza, cosiddetta assistenza diretta. Ti mandano a casa le persone. Cioè, sono persone che potrebbero fare il dog sitter, come potrebbero occuparsi dei giardini. Ecco, ti vengono. Quindi l'ambiguità della legge sta lì, nel definire. Cioè, chi ha un problema di questo genere ha dei diritti e non lo sa. Sì, non lo sa. No, in realtà è ambiguo. Ti do l'assistenza, ma l'assistenza deve essere di qualità, deve essere personalizzata al problema che ha il ragazzo. Insomma, queste persone per un anno mi sono venute a casa, le ho sopportate, perché in fondo erano ragazzi che avevano bisogno di lavorare, ma quando ho capito che prendevano 3-4 euro all'ora, e per quella cifra una persona non si forma, aspettando di avere un lavoro migliore. Forse la cooperativa incassa un'altra cifra. Sì, la cooperativa ne prende più di 30. Una volta che ho capito questo, 10%. Ho detto: mi dite quanto spendete, l'ho messo nel libro, sono cifre per mio figlio, spendevano più di 900 euro al mese per un servizio che non serviva a nulla, inutile, anzi, per me era un onere dover quel giorno stare a casa. Dovevi stare attento a quello che facevano. Ho visto che la legge permette l'assistenza indiretta, cioè io dico al municipio, dico: questa è la persona che voglio assumere, e così ho fatto. E si può, questo è un diritto, certo che si può. Però la gente non lo sa. Sì, devi insistere, ti dicono non si può, bisogna vedere. Da un certo punto di vista è una salvaguardia, perché ci sono delle situazioni in cui la persona prende l'assistenza diretta, la famiglia viene assegnato il budget, dice magari di mio figlio se ne occupa una zia o se ne occupa la madre, prendono il budget, il ragazzo rimane chiuso a chiave in casa e con quei soldi ci pagano l'affitto. Ahimè, è triste, ma quella è una cifra di denaro pubblico destinata all'abilitazione e all'assistenza di un disabile, non per pagare l'affitto alla famiglia. È un altro problema. Risultato: io per quella stessa cifra ho fatto una mia integrazione per tutti gli aspetti previdenziali, assunto a busta paga l'educatore specializzato, che è il meglio che posso avere sulla piazza, mi viene tutti i giorni dalle 15 alle 21. Mio figlio in un anno è cambiato dal giorno alla notte. È uno vero. Ma certo. E il costo è quello. Esattamente. Che è al contribuente costa lo stesso. È un vero servizio. E la gente non lo fa perché non lo sa. Sì, è chiaro che le cooperative non ci guadagnano in questo. È logico. Tu il mondo delle cooperative l'hai frequentato molto, ne hai denunciato anche. Sì, l'ho detto molte volte, certo, l'ho detto. No, no, non voglio demonizzare in assoluto. Assolutamente. Ci sono ottimi operatori sociali, ci sono persone che lo fanno bene. Guarda, non è. Nessuno chiede di essere Madre Teresa di Calcutta. Ci vogliono persone che abbiano studiato, è un lavoro bellissimo. Se tu studi per occuparti di categorie disagiate, devi saperlo fare. Esatto. È giusto che di questo tu guadagni, non ti si chiede di fare il monaco. Però tra guadagnarci giustamente, lecitamente, e invece lucrare a 3 euro l'ora su un servizio pagato 30, c'è in mezzo la formazione. Capisci? Se il principio è quello di avere un'azienda, chiaro, io esternalizzo l'azienda, la mando dove ho personale, mi costa meno se voglio guadagnare. E non puoi guadagnare, non puoi trattare persone disagiate, disabili, bisognose di assistenza come tratteresti una fabbrica di scarpe. E quindi, per chiudere, tu pensi che si dovrebbe procedere come? Si devono coalizzare le famiglie, devono studiare, trovarsi dei rappresentanti importanti, legali, informati, che studino le leggi, si muovano, facciano lobby se necessario per modificare le leggi. Questo sistema va scardinato. Le famiglie diventino loro imprenditori del loro problema, facciano delle piccole aziende familiari, saranno loro a gestire, a garantire che il denaro pubblico, che è denaro pubblico, è denaro tutto mio, tuo, di tutte le persone che ci ascoltano, va usato bene, non può ingrassare le tasche di persone che usano questo lavoro come fosse un lavoro qualsiasi. Occuparsi terzo settore non è un lavoro qualsiasi. Può essere un lavoro, però non è qualsiasi. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS. Paolo da Roma. Paolo, pronto? Pronto, buongiorno. Eccomi, buongiorno, dica. Buongiorno a voi. Dunque, io sono un amministratore di una cooperativa sociale Onlus. Sì. Operante nella zona della provincia di Roma. Sì. E allora, dal 2001 ad oggi, prego? No, allora la sua valutazione... Cos'è che ci voleva dire? Dunque, questo volevo dire, questo scandalo che è uscito fuori a Roma, per chi lavora nel settore non è nulla di nuovo. Ma infatti lo vediamo dagli SMS che riceviamo. Esatto. A mio avviso, noi negli anni abbiamo maturato l'idea che il sistema degli appalti è del tutto fallimentare, mentre forse quando è stato istituito si pensava di poter offrire... Naturalmente, la prova dei fatti. La prova dei fatti non ha retto, non funziona. Assolutamente. Prima sentivo parlare un vostro ospite che diceva che i lupi sopravvivono e esatto. Si soccombono. Noi chiudiamo perché non ce la facciamo più. D'accordo. Ad andare avanti in questo modo, secondo noi, sarebbe logico che un'amministrazione pubblica potesse decidere direttamente a chi affidare un servizio, a chi lo fa meglio o a chi lo offre a prezzo migliore. Grazie della sua esperienza. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli SMS sono tantissimi, tutti più o meno sulla linea del nostro intervento, tutti lamentano questo problema, anche rispetto a Roma, su Tor Sapienza, dicono lo sapevano tutti a Roma quello che ha scritto Bonini, e era la cosa più puzzolenta del mondo, scrive Ilaria, una per tutti. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dai riflettori si muove nuovi mille, un solo sogno. Daniel Tarozzi è l'autore del libro Io faccio così. Ecco, è il primo dei nuovi mille, l'avete sentito nella sigla, cioè gli agenti del cambiamento, perché cerchiamo di avere anche un po' di speranza, che incontreremo nei prossimi mesi nel nostro viaggio in Italia. Tu, Daniel Tarozzi, hai girato l'Italia in camper per raccontare. Ma per raccontare che cosa? Per raccontare di questa Italia che cambia. Io faccio così è la risposta che mi hanno dato le oltre 450 realtà che ho incontrato in 7 mesi in tutte le regioni italiane, che nonostante crisi, burocrazia, mafie, criminalità riuscivano a fare concretamente cose positive. Perché in camper? In camper perché cercavo un modo di essere elastico, di potermi muovere senza un programma predefinito, andando a trovare le persone che via via mi venivano segnalate e quindi di riuscire a entrare anche nei luoghi un po' remoti del paese. Ma intanto anche tu hai fatto così in qualche modo, cioè hai smesso di fare il giornalista e poi... Sì, ho smesso, oddio, forse ho iniziato a farlo veramente come amavo farlo, cioè sono andato nei territori, no? Sono andato a cercare per 7 mesi, ho lasciato la mia casa, ho lasciato, non potendo pagare un affitto girando il paese, sono andato a cercare queste persone, a vedere veramente com'era quest'Italia di cui spesso sentiamo parlare solo negativamente, volevo vedere un'altra Italia. Ecco, ecco, ma con che criterio hai girato l'Italia? Chi ti segnalava le realtà, le situazioni, gli imprenditori, le persone? Il criterio era cercare persone che si assumessero la responsabilità della propria vita senza aspettare che qualcuno lo facesse al loro posto, quindi era abbastanza laica come ricerca. E le storie mi sono state segnalate un po' con il passaparola, tantissimo, e un po' chiedendo prima di partire a tutta una serie di realtà, di segnalarmi le realtà più interessanti, l'economia solidale, il mondo dell'imprenditoria, il mondo delle periferie e dei progetti di integrazione nelle periferie. Insomma, persone che hanno il coraggio e si assumono la responsabilità del fare senza aspettare, questo esatto, e che soprattutto ci riescono, quindi non solo sai idee interessanti ma un certo. concretamente riescono a fare le cose, cioè un'Italia che prova a fare e non molla, e l'hai trovata. L'ho trovata ed è stata, la difficoltà non è stata trovare esperienze interessanti ma scegliere tra le centinaia che mi hanno segnalato, è stata veramente una ricerca incredibile dove ho scoperto un altro volto del paese, un'Italia che è totalmente diversa da quello che immaginiamo e che riesce a, ripeto, a realizzare qualunque tipo di progetto, dal più folle sull'alimentazione, sulla salute, sulla legalità. Non c'è un tema in cui non abbia visto esperienze concrete di cambiamento positivo. Ecco, ma dopo questo viaggio dell'Italia, tu cosa pensi? Penso che sia un paese che per una volta è migliore del racconto che facciamo e sicuramente è migliore della sua classe politica, che accanto, diciamo, a una parte di paese che conosciamo che non va, abbia tutte le possibilità per ricostruirsi e per ripartire. Bisogna però farla emergere e metterla insieme, perché queste realtà spesso sono isolate e non sanno di essere parte di un mondo più grande. Non sanno uno dell'altro, non sanno uno dell'altro. Adesso che hai fatto questo viaggio, che hai capito queste cose, cosa ti proponi di fare, Daniel? Con un gruppo di giornalisti ora su italiachecambia.org stiamo creando una mappa dove stiamo mettendo tutte queste realtà proprio per farle emergere, per renderle evidenti e farle incontrare tra loro. Quindi su italiachecambia.org, oltre a mettere i video e gli articoli di queste storie, le mappiamo e via via cerchiamo di costruire questi ponti che mancano per favorire questi processi. Mi racconti la storia vera di un io faccio così che ti ha colpito più delle altre? Sempre per me la domanda più difficile, diciamo che forse quella che può essere più interessante anche per il tuo pubblico, immagino che possa essere quella del GATT, perché spesso in Italia una delle cose che ferma chi ha un sogno è quella di non avere i soldi per realizzarlo, e allora questo gruppo di ragazzi, questi 6 ragazzi che volevano acquistare un casale per aprire un'azienda agricola, avevano bisogno di 1 milione di euro per comprarlo, ristrutturarlo e avere 3 anni di stipendio pagato per una startup, e hanno scoperto che tramite il GATT tu potevi trovare 100 persone che ti danno 12.000 euro, no? Che sembra una cosa impossibile. Beh, loro senza media che li appoggiassero e tutto hanno avuto oltre 700 richieste, quindi hanno raccolto un capitale potenziale di 8 milioni di euro nel giro di pochi mesi, tanto che hanno comprato 2 casali, stanno per comprarne il terzo e ci saranno 18 persone pagate per 3 anni per realizzare il loro sogno. Questo quindi, nel 2012. Quindi gente veramente... che investe sulle idee e sulla credibilità delle persone, non sulle loro garanzie bancarie. Esatto, e centinaia di persone tra l'altro, quindi una potenzialità di realizzare i propri sogni anche senza appunto avere soldi, anche in un'epoca di crisi e così via. Ecco, questa... è uno dei tanti esempi. Ecco, questa serie nella quale tu sei intervistato si chiama Viaggio in Italia, i nuovi 1000, gli agenti del cambiamento, c'era la sigla in partenza. Insomma, questi nuovi 1000 ci sono, forse ce ne sono di più, quelli che danno speranza all'Italia. Esatto, probabilmente sono i nuovi centinaia di migliaia. Guarda, io da solo ne ho raccolto segnalazioni di qualche migliaio in questi anni, io e il gruppo di giornalisti con cui lavoro, ma noi non siamo famosi, chissà quanti ce n'è che non abbiamo neanche sfiorato ancora, quindi veramente, secondo me, l'Italia è veramente molto molto migliore di come pensiamo. Ecco, noi ci siamo impegnati e questo viaggio in Italia lo faremo, e lo faremo anche con le persone che ci, sulle persone che ci segnalerete voi. Grazie a voi dell'opportunità che ci date. Mix 24. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Questa metropolitana è un sogno, ma un sogno. Devo dirti, Giovanni, subito dopo la metropolitana, dopo essere emerso, sono uscito fuori per strada e ho capito che cosa stava succedendo. Perché capita, sai, a volte capita che i motori delle automobili diano e cedano il passo agli archi dei violini e rinunciano al carburatore perché fanno proprio un assetto di rossetto e cioccolato, che è il titolo di questa bellissima canzone di Ornella Vanoni, per preparare una bellissima giornata tutta di zucchero a velo. No. E questo serve per masticare, caro Mario, le ore e dare al lavoro, alle faccende, agli appuntamenti, tanti ingredienti buoni dell'aria soddisfatta, e cominciare così il gioco, lasciandosi vivere tra rossetto e cioccolato. Bello, bellissimo, bravo, gente. Giovanni, ti ho detto, quando... Mario, non è per te tra rossetto e cioccolato. Non ti prego, ha citato lo zucchero a velo, stavo morendo. No, ma sì, ma lascia cantare Ornella Vanoni. Lasciamola cantare. Mario, le tue bolle ci portano dove? In mezzo alla realtà. Vorrei darvi le ultime notizie sulla navicella. Siamo un po' fuori rotta, ma soltanto di 500.000 di miglia. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente lo scafo della navicella. In questo momento, inoltre, siamo privi del sistema di navigazione. È sicura di averci detto tutto, signorina? Abbiamo finito il caffè. E lì, ovviamente, vai. No, è scattato il panico, mancava il caffè. Perché parliamo di aerei? Perché li leghiamo al petrolio e vediamo, esatto, come tutto è connesso. Allora, per la prima volta negli ultimi 5 anni, oggi, il petrolio è sceso sotto i $65 al barile. Questa è una grande notizia, bene e male, vedremo perché. Continua a scendere, a questo punto è difficile capire dove sarà il punto di caduta e di rottura o di ripresa eventualmente. Per le compagnie petrolifere, ecco le bad news, è un problema. Pensate che la sola British Petroleum deve ristrutturare costi per $1 miliardo. I rischi di deflazione in Europa li abbiamo già segnalati da un po' di tempo. Un dato di fatto. E c'è un dato positivo però. Per esempio IATA, che è l'associazione delle compagnie aeree, fa sapere che stima per i suoi vettori, udite udite, quasi $20 miliardi in profitti netti quest'anno e 25 l'anno prossimo. Il carburante costa meno. Questi sono gli effetti della diminuzione del prezzo. Check and balance. Come si dice? Buttafuoco potrebbe ucciderci dopo aver detto check and balance. Certo, è una piritollata così. Questo, che succede? È la stampa, bellezza. La stampa. E tu non ci puoi far niente. Niente. Oh, vabbè, e qua è la stampa, che può essere anche quella vecchia e nuova quando non trova un accordo. La notizia più importante del giorno per il settore della new economy, che poi è l'economia to court e buonanotte, è certamente la chiusura di Google News in Spagna. L'hanno già annunciata al GR, è praticamente la prima notizia sui siti finanziari, in Financial Times là in prima pagina adesso. Giovanni, qua il tema che noi abbiamo affrontato da sempre sta venendo fuori. Piano piano, anzi, quindi, oramai... Quindi da un lato c'è Google che dice: noi abbiamo dato, sono dati importanti questi, $9 miliardi con il programma di senso agli editori, di più non è possibile. Gli editori dicono: ma i nostri contenuti devono essere pagati. Alla fine il braccio di ferro si è risolto come temevo, cioè che Google News di fatto, Google non indicizzerà più i contenuti dei siti di news spagnoli. A mio avviso crollerà il traffico, ne abbiamo un esempio. Comunque è una battaglia che è solo all'inizio, questa. Sono le deve prime trovare mosse, una soluzione, un punto di equilibrio, esatto, equilibrata in sede europea, non ci sono dubbi. Salamino! Questo non è un salamino. Ah, questo è un appello. E siccome qui non c'è René Magritte, ma il tempo d'avvento, qui si va per le spicce e si fa un appello a Matteo Salvini, che lui di solito ci ascolta. Matteo, se sei in ascolto, l'appello è per te, affinché Salvini risolva il giallo di una sparizione. Non che c'è è successo? E non c'è, caro Mario, il presepe a Trinità dei Monti. Presepe. A Roma, Piazza di Spagna, non c'è il presepe. Come non c'è? Non c'è, non c'è, perché non sai... Sai come i bravi presidi laici che non vogliono soverchiare coi riti altrui. Ma Marino si è abbracciato col Papa. A maggior ragione, a maggior ragione, non lo posso dire, non lo posso dire. Attento perché ci sono i ceci. Guarda come ci guarda Giovanni. Ha già tirato fuori i ceci. Guarda come ci guarda Giovanni. Ma la cosa è allora la questione è questa: l'uomo dalla panda rossa, che poi è la stessa macchina che utilizza Babbo Natale, tace, dice che non sa niente, al comune non sanno niente, però non è questione loro, non è competenza loro, però questo presepe non c'è. Allora, io ribadisco, Matteo Salvini porta immediatamente un presepe a Roma, e poi è proprio una fissazione questa di sti piritolli laici che ce l'hanno a morte col presepe. E oltretutto, se fosse questione di risparmio, io qui giusto per... come dire, per mettere una parola buona, no? Se fosse questione del risparmio, Mario, dimmi, tu come te lo spieghi che il serpentone tricolore di luci tricolori che illuminava, no, non c'è più, non c'è più. No, è quello che c'è nuovo che quello è che c'è nuovo che sarà costato. Sono tutte le bandiere del mondo laicamente. Non si capisce niente. No, scusa, il presepe, tra l'altro, arrivano in magi, oro, incenso e mirra, ci guadagni pure, quindi cosa vuoi? Posso introdurre una nuova rubrica? No. Giuro, non c'entra niente con quello che... È la rubrica di proverbi. Dai. Allora, il proverbio, anche perché questa musica meravigliosa è la novena di Leonforte, il proverbio di Leonforte dice così: quanto danno fa un cretino, manco un porco nel giardino. E la quota rosa oggi è speciale. Signori e signore, è con noi Amelia. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa fa, signora, a Ragusa? Vuole la risposta renziana o la risposta vera? Secondo Renzi sono una freelance, secondo la realtà sono una disperata. Amelia ha riempito la regia di profumo del mare, della terra di Sicilia. Giusto, Pietrangelo? Giusto. Ma intanto... Iblea. Esatto. Io protesto formalmente a nome Amelia, della Sardegna. Ma la signora Amelia quanti anni ha? 29. Ecco. Ma a Ragusa, le disperate, cosa fanno esattamente? Allora, esattamente ho un cococò con la Sicilia, che è il principale quotidiano di Catania. Lavoro con loro, collaboro con loro, se mi va bene acchiappo 300 euro al mese e li ringrazio pure. Nel frattempo faccio un sacco di altre cose cercando di avere collaborazioni varie, colleziono abilitazioni, tra cui per l'insegnamento, per tutto quello che si può, e poi partecipo a tutti i concorsi dovresti metterti in contatto con Dani Tarozzi, io faccio così, ha scritto nel suo libro, magari ti dà viene un'idea. Magari mi dà un'altra cosa da fare che mi mancano, quindi me ne faccio gratis possibilmente. Gratis faccio qualunque cosa. Perché è più nobile. Senti, ma hai mai pensato di trasferirti all'estero? Sì, ma mi sa di resa, perché è più facile forse andare a raccogliere dove altri hanno seminato, però se noi continuiamo a non seminare niente, specie in Sicilia, voi qua avete Buttafuoco che l'ha scritto più e più volte, in Sicilia dalla Sicilia se ne vanno tutti e non c'è più niente. Io ho studiato a Milano, ho fatto un master a Roma, ho vissuto per un breve periodo in Spagna, e però poi sono voluta ritornare, perché se se ne vanno tutti è normale che poi diventa un deserto. Sono Don Chisciotte. Sei tornata perché non avevi più voglia di fare niente, allora? Perché non volevo più fare, mi volevo mettere a fare i biscotti e vivere tranquilla. Il famoso otium. Famoso. Mix 24. Il canzoniere. Cerchiamo una nuova veglia. Od Orlando in un medesimo tratto, cosa non detta in prosa mai, né in rima, che per amor venne in furore matto, don che si saggio era stimato prima. Se da colei che tal quasi m'ha fatto, che il poco ingegno ad orador mi rima, me ne sarà però tanto concesso che mi basti a finir quanto ho promesso. 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS, un aiutino, no? Aiutino, più no, aiutino niente, di quello. Basta, va bene, forse ha, anche Amelia ha, che regia dato tutti lo indovina. Gli elementi. Va bene. Tutti gli elementi. Allora, intanto andiamo con una bolla mentre aspettiamo le risposte. Vai. Beh, insomma, è la sigla di James Bond nelle sue varie versioni e declinazioni, perché parliamo di spioni. Allora, avete visto tutti la pubblicazione del report sulla tortura della CIA, che ha destato ovviamente molto clamore in tutto il mondo. La verità è che, insomma, erano cose note, che facessero waterboarding certo. Si sapeva, e forse bastava anche andare al cinema per scoprire quella che in fondo era l'acqua calda, parliamoci chiaro. In fondo è anche la guerra, aggiungo, con tutte le sue brutalità e orrori. Ma non è di questo che in realtà vi voglio parlare, perché c'è una notizia che riguarda i servizi segreti degli Stati Uniti, anzi tutta la intelligence community, che è molto grande, che è interessante, perché è al quarto posto negli Stati Uniti come uno dei luoghi migliori per andare a lavorare. Quindi sono molto apprezzati dai dipendenti e, come dire, no? Possiamo fare una battuta? Che possano fare come vogliono. Sono molto bravi, però adesso, al di là di tutto, la loro gestione bravi. Dell'amministrazione se sono è grossa. Loro che danno le notizie quello per è un altro la linea film. Politica quello di politica europea film. Di politica internazionale alla Casa Bianca, ma dubbio, su quello apriamo un grande dibattito. Ecco, qualche dubbio ce l'avrei. Sì, pure Pietrangelo, mi fai il tuo salamino? Quirinale cercasi, no, anzi, il Quirinale c'è, si cerca la successione, no. Però potrebbe essere una farsa questa successione, questo lo dice Gianfranco Pasquino, che è un autorevole politologo, perché lui oggi con Emiliano Liuzzi sul Fatto propone un ragionamento niente male, ed è anche critico nei confronti dell'operato di Giorgio Napolitano, perché dice: mi sarei aspettato autocritica su quella grande utopia che è l'Europa, e questo già è una prima botta. È una botta, e sai com'è, l'Europa è l'argomento retorico per eccellenza. Leggessero e studiassero. Pasquino è bravo, però andremo a fare le lezioni, bravo, dico, però appunto le istituzioni leggessero e studiassero e capissero Guarino, o comunque lo ascoltassero attraverso i nostri microfoni. Abbiamo bombardato, però forse ce ne vuole ancora, forse ci si avvicina. Dopodiché, a Guarino legge tra le righe quello che nel famoso discorso di ieri, che oggi vedo che la stampa di Torino consegna scolpito nel marmo tra le parole fondamentali che rendono eterna l'Italia e più bella che prima, invece Pasquino dice che lì non è che ce l'ha solo con Grillo, no. Ce l'ha anche con Renzi. E poi dice: qui si prepara il fallimento, e il fallimento si intende nell'essersi affidati a persone mediocri, a un manipolo di ipocriti, e quindi, dice Pasquino, Napolitano ha fallito. E la successione diventa una farsa, perché nel frattempo sode una carica. E la carica che si sovrappone all'inno è questa, ai noi. È l'autocandidatura della terza carica dello Stato, Laura Boldrini. Pure. Ma non l'ha mica detto. L'ha detto, ci vuole una donna, ci vuole una donna di un certo tipo. Candidati. Ci vuole il Grasso, tipo di, ci vuole il tipo di una donna. Vedi, mi consumavo proprio il climax, perché c'era la seconda carica. Ma facciamo sentire. Ecco. Arriva niente di meno che Pietro Grasso, il cui movimento è sempre quello dell'annacata. Annacandosi arriva. Scusa, puoi tradurre per noi isolani dell'altra parte, annacata, please. Allora, in questa trasmissione, che potremmo anche, se ce lo concedi, dire Mix 24 trattino isole comprese. Te credo. Allora, annacare significa dondolarsi, no? Ecco. E quindi cercare di avere il minimo spostamento attraverso il massimo del movimento. In però Sardegna si dice nanniente. Una tagliatina di faccia la vorrei dare, ricordando agli italiani che hanno poca memoria qual è il loro vero inno. E qui anche Giovanni si commuove! Arriva fino a Torino quest'inno. Paola da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Allora, ha indovinato il nostro canzoniere? L'Orlando Furioso. Giusto. Sì, di Vittorio. Giusto, Feltrinelli. Che si fa a Treviso? Io sono pensionata, quindi tutto abbastanza tranquillo. Ah sì? Beh, sì, insomma, ci segue però, mi pare. Sì, sempre, che bello. Sempre. Bene. No, io volentieri lo chiedo perché così ci facciamo un po' di complimenti da soli. Bella voce. Sì, certo, molto. Certo, una bellissima trasmissione. Grazie. Allora, la storia. Oggi la storia, via col file. C'era, certamente, una collusione e una compenetrazione tra informazioni che ricevevano i carabinieri e che in alcuni casi venivano chiaramente trasmesse per evitare. Ma quali gruppi eversivi erano più in contatto con gli apparati? Io direi che Ordine Nuovo era il frequente contatto, un normale contatto con loro. Non lo potrei chiamare strategia, dei colpi di spillo della tensione, del attivismo anticomunista soprattutto. Ecco, era Gianna Deglio Maletti che parlava, l'ex numero 2 del SID, e sarebbe stato appunto, secondo il generale Maletti, la strategia, quella dei punture di spillo, dietro la madre di tutte le stragi, quella di Piazza Fontana. Era il 12 dicembre del 69, alle 16.37, una bomba esplode nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano e provoca 17 morti e 80 feriti, la prima strage di una strategia della tensione che, come avete sentito dai giornali radio e telegiornali, i cui documenti sono stati oggi sversati e resi pubblici dal governo e che quindi saranno a disposizione di tutti quelli che vogliono consultarli e studiare. Oggi per la storia di Mix 24, a cura di Marina Milone, in un'inchiesta di Federico Lodoli, noi raccontiamo appunto uno dei misteri della storia del nostro paese, un mistero con cui sono iniziati gli anni di piombo in Italia.